courier, tornando al discorso del courier, devo fare dei lavori domani, devo fare dei lavori, vedi, al come si chiama, al moquettone, no, perché io l'ho fatto, si esce, trasmette, però c'è qualche innesco, qualcosa che gli crea l'innesco, i fili, e vuole controllato bene lui, capito, e me lo farò con calma, ti aumento un pochettino al McGinn a vedere, lo metto a 6, ola, 1, 2, 3 prova, se l'ho messo a 6 ieri, prendi. QSL, l'ho acceso anche adesso il baracchino, ce l'avevo sullo scaffale, non sapevo che cosa attaccare, lui mi sono facendo questo a vedermi, e stasera mi ero in quella frequenza famosa, ero e stavo provando, stavo, e c'era un sacco di gente, c'era, e poi anche in altre bande, ho visto che stanno andando di moda adesso queste frequenze tutte pirata, e mi stavo divertendo, e mi stavo divertendo anche stasera, e però stasera ho fatto poca roba, riprendi. Sì, è perché stavamo parlando altri sotto, non li sentivo, mi hanno rilanciato quasi alla fine, poi ho chiuso, lui non deve più stare sotto su zero con isso, ho trovato stasera, ho fatto poca roba, però c'ero anche stasera e stavo provando e li stavo arrivando bene, non so se hai sentito quello che mi ha detto con l'antennino che stavo usando, li stavo arrivando bene a quello, però era la frequenza era diversa da quella dove andiamo di solito, non so se l'hai vista, perché dove andiamo di solito levano sempre scuro. A lui che non ci sentono, capito? Cioè che ci sentono bassi, invece come mai questi mi sentivano? Vuol dire che quegli altri si volevano a fatti loro anche, ho pensato, vedi, perché l'antenna va più che meglio oltremare, funziona questa cosa, perché ho provato un sacco di volte anche con gente della Francia lì che va su quelle frequenze e va più che bene lui. Il rosso, visto che c'era un'antenna, erano 1-1, 2-2, andava bene, quindi erano reali i rossi che mi stavano andando sul rosmetro, perché ho usato l'accordatore, quello automatico stasera, quindi se l'ha accordata la radio praticamente, riprendi. Sì, QSL lui, e infatti, se no neanche io mi trattengo molto, perché poi c'è anche la finale del festival, quindi sul tardi voglio vedere un pochettino chi la vince, mi ha vinto anche la serata delle cover, vedi, sono andati in finale, se non questi vitti, voglio vedere queste cose qua che ci sono, vedi, alle premiazioni anche, che cosa hanno vinto, e hai capito, quindi mi voglio vedere la finale più tardi del festival, hai capito, ma sono entrato più che altro per testare questa roba del courier, che te l'ho detto che lo dovevo fare, però non ce l'ho fatto il lavoro, ma non è andato a buon fine, quindi domani ci riprovo, che domani c'è l'assultato, mi darai un altro, come si chiama, un altro controllo radio, lui capite, vediamo un pochettino che cosa, cioè se sono riuscito a risolvere questo disturbo che c'ha, e cosa volevo dirti, adesso sto andando bene con questa radio, che cosa, il buzz, non ho capito, no, il patch ce l'avevo ieri notte, quello è stato una fase, sì, l'ho provato, e lo stesso quello mi devo fare delle regolazioni, però oggi non ne avevo voglia, perché mi era rimasta questa radio senza microfono, perché avevo messo il microfono di quel courier sul patch, e quindi al courier li dovevo cablare questo che sto usando adesso, le dovevo fare praticamente il cablaggio alla radio per questi microfoni, solo che, capito, non è andata bene lui, e ci riprovo, perché altrimenti mi rimane il baracchino senza microfono, capito, quindi lo devo rimpiazzare quello, il patch poi già si fa con calma, tanto è una cosa di regolazioni, vedi, però siamo riusciti più che altro a farlo andare, perché è quello, perché non è che usciva molto bene prima in AM quella radio, e capito, quindi anche troppo come abbiamo fatto, lui riprendi, il courier, esatto, sì, con questi SBE lo stiamo provando, perché gli ho fatto il cablaggio alla radio, praticamente ho tolto il moquettone della radio e lo stavo cablando per il cablaggio che c'hanno questi microfoni, capito, come il console 2, non solo che c'ha questo innesco, c'ha questo disturbo, glielo devo risolvere, infatti bisogna portare lo schema suo che c'è in garage, vedere un pochettino i collegamenti, lui, perché c'è qualcosa lì che non sta andando, riprendi. Registrato un attimo. Io adesso sto usando l'SBE, c'è stata anche una bussata, però lo sentivo tutto spostato, non so se era in AM, qua siamo in Unifon, si era bravo, non ho capito bene chi era. C'è stata una bussata dalla zona di Sassari, lo facciamo venire avanti. Esagerato, bussata. Guarda che mi sono ascoltato comunque. Ciao, salutori, ben ascoltato. Aspetta un attimo che abbasso il watt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti usciamo male. Un attimo. 1, 2, 3. Operatore Claudio, chiodo da Ruginizio, QTH di Muros, in compagnia di Luigi Lima 1 da Oscar Zuno Fieri. Sì, purtroppo sei molto spostato, non ho capito il tuo nominativo. Non ho capito che sia Antonello, non ho capito Pomponio, sì. Ehi, ciao, salutori, ben sentito. Adesso ho cambiato microfono, stavo fischiando poco fa. Mi ascolti bene, sì? Sì, buonasera, ciao Antonello, buonasera. Mi hanno ascoltato, sì, poco fa, un po' fuori, non ti copiamo la perfezione, adesso stai uscendo bene, sì. Sì, stavo parlandomi con Luigi, non so se lo senti, te lo faccio venire avanti. Riprendi Luigi, hai ascoltato Antonello Pomponio da Sassari? Lo so per mezzo alla cosa, a quel rem che avevo già visto io, amico di Ossieri, molto molto molto basso l'ho sentato la verità, non so se lui ascolta me in questo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Sì, Antonio, sì, ti ascolta Luigi, non so se tu però sei riuscito a copiare a lui perché ti ha rilanciato, sì, arrivi anche bene Ossieri, riprendi Luigi, metti un pochettino di watt, che Antonello c'è un po' di QRM, ha detto, ti ascolta passo passo, vedi di alzare un po' la potenza lui. Sì, QSL, attacca al 140, dai, così arrivi anche forte tu lui. Antonello, stai copiando Luigi? L'ascolto basso, ma io l'ascolto comunque. Se attacca al 140 vale FM, è un treno. E cappa, io provo ad attaccare poi un'altra radio, scendiamo in FM, prova la possiamo fare, al limite attaccherò il mio cavo dell'850, sì che ce l'ho sotto questa radio, tanto che devo scambiare soltanto l'antenna. Ok, Luigi, metti le cose, 140, Antonello ti ascolta, passo passo, però se metti 140 facciamo le prove, prima in banda laterale, poi ce ne andiamo in FM, che sicuramente miglioriamo di molto in FM. Sì, Antonello, perché sai cos'è? Le frequenze qui sul 16 sono più pulite, invece sul 23 c'è un disturbo che io arrivo passo a cosa Luigi e Luigi arriva passo a me, abbiamo individuato anche sul 22, sul 20 e come che sono disturbate da qualche cosa, invece quando scendiamo qui sul 17, 18, sul 16 ho notato che riusciamo a sentirci più forte, poi abbiamo sperimentato questa cosa da poco e sicuramente è causato da qualche ripetitore, da qualche roba per le televisioni, poi non sono più puliti quei canali come lo erano prima, capito? Lui è tanto attacca al 140, se conosci pronto batti un colpo, riprendi Antonetti. Ok, io già sono tranquillo, sono a posto. Bene, adesso non so neanche quanto batti ci abbia. La verità io mi penso di avere almeno 30, una quarantina di watt. Scusate, adesso vediamo in FM. Sto usando un'antenna che non è la mantola naturalmente, devi mettere questo, sto usando un'antenna, una mezz'onda sto usando, una energy mezz'onda, capito? La mantola è quasi pronta, da installare, l'ho sistemata e era a posto, devo sapere sistemare i due radiali che sono storti, mettere i diritti in modo da poterli installare e poi comprarne altri due da Bricoven e andare sono a posto. Sì, QSL, qua arrivi bene, vabbè che noi siamo vicini, io sto usando un stazione base della SBA, un console 2, Antonè, e con il microfono quello palmare, quello SBA 100X con le batterie, no, che c'ha la rotellina palmare, che penso che già lo conosci, sì, preamplificato, ed è praticamente come quello da tavolo, mi c'è anche quello da tavolo, che lo stavo provando prima con un'altra radio, solo che gli ho fatto male il caplaggio all'altra radio, perché prima stavo usando un courier, però c'è un innesco, un courier valvolare, 23 canali, che è tipo il Comtat 25B è fatto, un americano, però cazzo gli ho fatto male il caplaggio, domani mi devo controllare, vedi, lo schema di quella radio, vedere un pochettino come è fatto, vedi, il caplaggio della radio, il microfono, vedere un pochettino se riesco a toglierne questo innesco che c'ha. Intanto vediamo, Luigi è attaccato il 140, di QSL viene avanti per un passaggio lungo e poi rilancia ad Antonello, riprendi. Sì, buonasera, ti ascolto. meglio di, un pochettino a palla palla meglio di prima, meglio trascorso, la verità. Quindi anche io sono con 140, quindi figurati tu. Già va bene, adesso non so neanche quanti fatto sto usando, perché vedo che la luce quando parlo si abbassa un pochettino, quindi se la minimo penso che siamo 50 watt, forse una cosa del genere. QSL, sono contento che riuscite a sentirvi tra di voi, almeno abbiamo più possibilità la sera, se entrando meglio, di fare un QSO tutti assieme. Ascolta, voglio fare una prova, lui però, voglio fare una prova, sì, qua, attacco il console 2 e attacco il TV, perché qua non c'ho FM, voglio fare una prova tutti assieme in FM, capito? Così, vedi, se arriviamo bene in FM la sera, magari se Antonello ne ha voglia di entrare, vedi, ci facciamo una ruota la sera, magari anche con Giovanni, magari se saliamo di frequenza, magari arriva anche Giovanni magari in FM, e voglio fare una prova in FM, un attimo che attacco la radio e attacco l'850, vedere, e passiamo in cosa, in FM, là, così vediamo, dovremmo arrivare più forte in FM, penso. Riprendi, Pomponio. Sì, in FM arrivi più forte, sì, che ho grido, è un'altra cosa, E un attimo cambio la radio, là. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Più di quant'altro non mi dà, Sono stazionarie, in antenna. Allora, vediamo un pochettino. Ora. 30, 40 watt, vedi, mi sta dando. Di più non era, se ne scende, c'è proprio l'antenna, già 1, 2, 3, 4, 5, 6 te la fa. No, se 9.50 la radio non c'è. Capa, siete già nel FM, eh? E adesso già sì, esatto. Io ho problemi di massa nel palo, e più di 30 watt non posso pompare. Un attimo, avete parlato in due, allora facciamo riprendere al più lontano a Luigi, perché mi sto fregolando queste stazionarie, cazzo, che sono con l'accordatore quello manuale, perché non sono ad antenna diretta, adesso sono con l'850 e sono, cazzo, allora rilanciamo a Luigi, vedi un po', sì, 9 più 60, vediamo Antonello, vi ascoltate, sì, tra di voi? No, assolutamente non lo sento io, mi sento il fuscio ben forte, ma lui non lo sente, ma da teore sì. Ok, in banda laterale, allora Antone va e lui, a Pomponi non ti sente in FM, allora quindi torniamo in banda laterale, però invece che in Unipo non si era bravo, facciamo la prova in Lima si era bravo, vedere, magari arriviamo anche più forte, passate tutti e due in Lima si era bravo. Eia. Sì, ti sento, vedi un po' Antonello? Sì, a lui lo sento adesso, è strano, è molto molto strano, comunque lo sento. Papa, non lo senti a Luigi, Antonello? Sì che lo sento. Ah, ok, già lo senti, allora rilancialo, no, riprendi lui. Se attacco il Ridan pure io, allora fa un passaggio lungo lui che ho acceso il RID, ti centro. Io sono a punto 00, punto 00 con il RID, si alzo ti sento papperino adesso. Vediamo Antonello, riprendi Antonello. Pomponio, Antonello ci sei? Attenzione Pomponio. Sì, QSL, Antonello c'ha 95, c'ha 95, si fa la puntata, si lo vita fare che volte, anche quando sono andato a trovarlo a casa sua, ma ci passo anche spesso lì nella zona sua, più che altro, e ovviamente te la vedo spesso, c'è anche un'altra antenna, per la UHF, mi sembra che fa una Diamond, mi sembra che monta, sì, e a sé che un attimino, non so se ha avuto qualche problema, Antonio ci sì, Pomponio ci sì, non lo so, si è sentato un attimo, sicuramente avrà avuto qualche problema, comunque Antonio noi siamo qua, riprendi Luigi, no, abita più che altro in un condominio, capito, però il piano è tutto suo, dove abita, capito, ci ha messo anche la terrazza e c'ha una buona antenna, una Mantova 5, sì, ci sono andato un sacco di volte a trovarlo, sì, quando modulava a Papo, lo conosco, da quando ero piccolo, insomma, quindi, capito, con Papo sono amici di vecchia data. sì, perché modulavano un sacco di anni, capito? E cosa volevo dirti? Lui, sì, no, la Mantova 5, sì, c'ha la Mantova 5 di antenna, riprendi? Sì, all'ultimo piano, sì, sta un tonnello, sì, assolutamente, sì, e c'è anche un'altra antenna per le VHF, mi sa, di quelle Diamond, ma la volevo mettere pure io, quella però, che non fa, perché è troppo ingombrante sul mio tetto, perché c'ho il tetto che anche che è poco agibile, poi anche non so quale frequenze, se c'è gente o come funziona, non ci sono mai sperimentato, cioè, su quella banda proprio, mi piacerebbe averla, anche video di usufruire di quelle frequenze, ma se non c'è nessuno, se non c'è nessuno neanche che conosco, con chi parli, invece in 27 c'è più possibilità di fare collegamenti a lunga distanza, anche quindi tutta un'altra cosa, però non è detto che lì non ti diverti anche, bisogna sperimentare ovviamente, avere anche quindi, l'attrezzatura adatta anche per fare questo tipo di prove. Vediamo un po' se riprende, ci sia Antonello? No, non c'è, sicuramente ha avuto qualche problema, riprendi lui. Sì, abbassa un po' la potenza, poi al limite si rientra, già lo sento, tanto è vicino alle mie coordinate, non è molto distante dove sta lui, dove sto io, pochi chilometri di differenza ci sono, perché sono attaccato praticamente alla zona dove sta lui, quindi siamo molto vicini, arriva forte, arriva molto forte, io arrivo forte a lui perché siamo in una zona americana molto vicini, siamo molto vicini. Cosa volevo dirti? Non si riprende, già siamo qua, non c'è nessun problema, sicuramente avrà avuto qualche contrattempo, qualche problema forse magari con qualche spezzone, qualche roba, ma magari sta pensando anche qualche altra apparecchiatura, non lo so, comunque noi siamo qua quando vuole riprendere Antonello. Cosa dovevo dirti? Lui è... quindi ti stava arrivando bene, no? Riprendi? Esatto, 9 più 15 mi stai facendo lui, 9 più 15, e io come ti sto arrivando? Molto bene, capisco, sì, anch'io sto usando quel tipo di potenza lì, volendo posso anche aumentare, mi assuglielo, glielo un pochettino aumentata, lui, vedi adesso se ha cambiato qualcosa, hola, vedi adesso, scappa e già va bene, se mi riporto come ero prima, hola, 1, 2, 3, prova, riprendi. Sì, QSL, sì, ero riuscito a tirarti fuori lì e tu eri riuscito a tirare fuori a me anche in quella banda famosa, cioè che non nominiamo. Quindi lui, vedi, le giornate, ci sono giornate, vedi, che puoi e giornate che non puoi, sì, anche se arrivavamo facili, però vedi, sei riuscito a sentirmi, invece oltremare funziona, ho visto, ho provato oltremare, cazzo, andava molto bene la radio, andava molto bene, cazzo, e poi c'ero anche stasera, era la verità, stavo provando e c'era una ruota di gente, ho fatto un po' qualcosina anche stasera, però l'altra sera mi sono divertito di più, dire la verità, riprendi? Sì, questo è lei, giustamente, lui, capito? Sì, infatti c'erano giornate che non riuscivamo a tirarci fuori e poi alla fine ci siamo riusciti, vedi, invece in altre bande che si avvicinano di più a questa era più fattibile, come cosa arrivavi bene, addirittura sembravi in 27, lui sembrava in 11 metri, sembravi, e andava molto bene, andava la radio e anche in quelle bande lì e nulla da dire, conta che stavamo usando un'antenna, vedi, che per questa banda ed è progettata per usarla qua e anche lì andava bene, a dire la verità, anche lì andava bene, solo che quindi ci sono giornate che c'è più, come si chiama, più propagazione, a volte che trovi propagazione lunga e non riesci ad andare oltre, capito? Perché ti copre il QRM anche, quindi ti è dovuto a quello, però vedi su quelle frequenze tipo il canale 23, che stavo dicendo prima, e lì ci sono problemi, non lo so che cosa interferisce, però cazzo, ho provato un sacco di volte anche con mettendoci VAT, con radio anche differenti e praticamente vedi arrivavi passo tu e ti arrivavo passo io, lui, capito? Poi la mattina anche sento vedi di questi disturbi, tipo questa mitraglietta, tipo questo ta così, è molto fastidioso, non so cosa può essere. Infatti quando vedi c'è questo disturbo devi salire molto di frequenza perché è molto fastidioso come cosa, riprendi? Sì, questa è la trota, stava arrivando un temporale, mi stava piovigginando, mi sa, pioveva e capita, era dovuto a quello, ma io lo sentivo più che altro in lontananza, non erano nella mia zona perché qua c'è piove forte, che cazzo che sta arrivando proprio una burrasca forte, sento cazzo delle cose, vedi che le smitter me lo fanno salire la manetta, è molto QRM causano soprattutto, quindi ti stanno dicendo in poca parola attaccare la radio che c'era un temporale in arrivo, una roba del genere, ti avevo fatto cambiare banda, non so se te lo ricordi, eravamo passati in un'altra frequenza segreta, diciamo, e lì non li avevo lui, e quando abbiamo cambiato banda, su quella banda lì lavoravo benissimo, cioè non mi dava nessun tipo di fastidio, quindi, nonostante che fuori stava piovendo forte, quindi, e capito che c'erano anche lampi, cose, avevamo cambiato banda, eravamo passati su quella banda famosa, e non c'è più questo fastidio, e magari in 27 se li attira di più anche questi disturbi, quindi non lo so, se provo a rilanciarlo io, attenzione Antonello, sei ancora operativo? No, negativo, non c'è, e sicuramente ha dovuto passare, perché anche un po' tardi, capito che ora abbiamo fatto, mi sa che allora, mezzanotte 50, è mezzanotte 50, quindi ha dovuto staccare magari, perché magari disturbava, magari, e quindi magari ha dovuto accedere, magari c'è ancora in QRX, comunque lo super salutiamo, Antonello, ci sentiamo alle prossime al limite, se non può più riprendere, cosa volevo dirti, Luigi, capito, no, stiamo andando bene con questa radio stasera, con 540 è tutta un'altra cosa mia, che l'ICOM va bene, però l'ICOM in AM è negato, in AM non va bene in 27, capito, e quelle radio della ICOM vanno bene soltanto ad uso radioamatoriale, in 27 proprio, cioè non è che escono molto bene, perché ce li avevamo, lui è, me li ricordo, le uniche che andavano bene erano amico dello Iaesu e questi Kenwood molto, però ho messo con l'MC60, che è questo che ho io, una M, se io entro tipo col microfono, quello che sto usando adesso, sì, esco bene, però faccio cagare, capito, perché devo metterci l'MC60, capito, lui, se non metto l'MC60 in AM sono paralizzato, capito, quindi, volendo, però mi posso trattenere ancora una mezz'oretta, tanto finisce tardi e lui finisce quasi alle 3 di notte, quindi non c'è problema, no, ma mi guardo più che altro la finale, perché non è che sono molto belle le canzoni, cioè per il semplice gusto di vedere chi lo vince, chi premiano, non è che sarà tutto truccato, però me lo voglio guardare un pezzetto dopo e ancora posso rimanere tranquillo, posso fare ancora un'altra mezz'oretta di radio e cosa volevo dirti, sì, le 2060 lo devo acquistare, se lo sai cos'è, che in AM ormai non ci sto più modulandomi, per lui ormai che ne faccio io, sono sempre in banda laterale, lui è... va bene anche per usarla così, mi sento MC60, poi se voglio usare bene la M, sono i baracchini che hanno microfono preamplificato, vedi che vanno bene in AM, tipo superstar, vedi quelli che ho, e capito, e questo lo accendo poco, l'850, capito, ogni tanto mi faccio qualche DX in banda laterale, mi fanno perdere l'attitudine, ma lo uso poco, però, capito, me lo devo comprare, ovviamente mi devo comprare anche la colonnina, se la trovo, perché, capito, la devo avere tutta completa la radio, perché questa radio è un gingillo, a dire la verità, e va molto molto bene, sono molto entusiasta, e poi vedremo anche di comprarne altri di questi radioni tipo questo, per sempre Kenwood ovviamente, perché se devo comprare altre marche compro la Iaesu soltanto, capito, la Iaesu, però non Iaesu di questi piccolini, no, tipo con il 757, non compro più roba così, voglio roba grande, io quando compro radio tipo questa, tipo l'850, tipo il 940, il 950, e poi mi piace molto l'FT1000 della Iaesu, che ha capito, poi hanno fatto l'FT5000, che è il migliore di tutte, e vedi, quello, vedi, se conservo i soldi invece di comprare, vedi, radio tipo queste più vecchiotte, che ormai ce le ho avute quasi tutte, capito, mi conservo i soldi e piano piano e mi compro direttamente quello, capito, perché quella radio proprio la devo avere assolutamente, capito, li ho avuti quasi tutti, però quello lo devo avere assolutamente, e prima o poi avrò anche quella radio, e questo è garantito. Cosa volevo dirti, lui è, no, questo, guarda, se li metto le mie 60 non dispiace, però ovviamente ne hanno fatto migliori, ovviamente, sì, di questo, anche perché c'è sempre qualcosa, vedi, che hanno creato dopo, che è sempre superiore, sempre un passo avanti, quindi bisogna adattarsi ai tempi, ormai questi input così, mi tipo il 940, il radio così, le trovi anche a prezzi di 500, di 600 euro, perché stanno diventando obsolete come radio, hanno un tot di anni di servizio, quindi la gente se le sta tutte levando dalle palle, perché anche, vedi, passano altre tipologie di radio, vedi, che sono migliori di queste, se ne disfano, vedi, le mettono in vendita, poi con i soldi, vedi, che accumulano, vedi, si comprano altre apparecchiature migliori di queste, ma non perché le radio, cioè, non sono efficienti più, molti le danno mettono dei condensatori, come è successo alla radio di Giovanni, ma capito, vanno molto bene, se lo trovi in perfette condizioni. Io vedi, ho avuto una foto di culo che l'ho trovato perfetto perfetto e va soltanto il cavo mancante dell'alimentazione, ma già mi sono arrangiato per quello. E però vedi, se riesci a trovarlo perfetto perfetto va bene, però non è che lo puoi paragonare a una radio che è stata fatta, cosa ti posso dire, 10 o 15 anni dopo, capito, perché c'è un'altra cosa che vedere, capito. Però vedi, se ne distano molte volte, come ti ho detto, perché passano a radio migliori anche, capito, e perché anche sono quelli che sono, come ti posso dire, che sono volubili, li vedi che vogliono sempre cercare la miglioria, allora comprano, vendono, poi tornano a comprare, vedi. Io invece, vedi, se va bene una cosa me la tengo stretta, e non vedo perché me la devo vendere. Ma anche se uno tipo dovesse avere difficoltà economiche, dico, anche se uno va a vendersi la radio, cioè non ne ricava niente dei soldi che guadagna, si ti aiuta, siccome cosa, magari se uno arriva a un certo punto soltanto quando è col gancio alla gola, proprio a che se la deve dare per vedi, difficoltà economiche, io bene o male non ho di questi problemi, vedi, anzi sto sempre comprando e spero di continuare così, vedi, a comprare sempre di più, vedi, ogni anno mi compro una radio nuova, vedi, quindi perché posso, vedi, sono molto, molto fortunato con questo, lui. Le 2060 come occasione che trovo a due soldi me lo compro, non posso pagare 140 euro le 2060 per usare la radio una M, che poi neanche ne faccio utilizzo di questa radio una M, perché sono sempre col paracchino una M, però la devo completare sia di colonnina e sia di microfono, capito hai? Ma volendo li metterò lui, le 2090, ho visto che ce l'ho il Deplian, che mi sembra più adatto, però molti mi hanno detto che, cioè me l'hanno criticato, mi hanno detto che il fallimento totale lo attivo, però lo voglio testare, cioè perché se costa di più di un MC60 vuol dire che c'ha anche qualche pregio che noi non abbiamo testato, a dire la verità. E riprendi? Sì, questo è lei, lo so, l'ho avuto quando c'avevo il 430, mi sa 2-3 anni fa, sì, l'ho dato insieme al 430 e capito, perché il 430 aveva dei problemi anche, me ne sono disfatto e ho dato via anche il microfono, perché era anche toccato il microfono e vabbè che l'avevamo pure regolato, andava anche bene, ma sono pignolo io e quando c'è una cosa che si è scacciavizzata la do via, a dire la verità, perché se andava bene quel 430 me lo sarei anche tenuto, ma cazzo era tutto toccato, allora mi sono detto lo via e vaffanculo, ho detto me ne compro un altro di Kingwood, tanto non ne ho problemi di soldi, ho detto, e mi sono preso questo che ho adesso, questo 250, va molto bene. Sì, l'ho visto anche che è predisposto per quel microfono lì, no, ma se devo mettere li metto un 60, però cazzo non posso pagare 140 euro un microfono che compro con 70-80 euro lui. Perfetto, perfetto, l'occasione è giusta, bisogna aspettare, capito? E cioè per come lo sto usando adesso va molto bene anche con quel cos'è, l'MC43, questo è un giocattolino di microfono e sono col processore inserito, però se metto l'MC60 non c'è neanche bisogno più del processore, se metto il processore è una bomba, Poi in AM non ne parliamo, che in AM dovrebbe andare forte, nonostante che mi hanno detto che va bene solo in banda laterale, io so che va bene anche in AM questo apparato, perché gente che l'ha usato, vedi che me l'ha detto, me l'ha garantito che esce bene anche in AM, capito, infatti me l'ha detto, direi che te l'ha detto di andare a farci una cagata, che non è così, mi ha detto, e infatti seguo i consigli, vedi, della gente che mi fido di più anche. Cosa dovevo dirti? Poi, no, la radio è perfetta, ma sono molto entusiasta, ma ho parlato col mondo intero con questo apparato, dire la verità, ho fatto dei collegamenti sì anche col 757, ma come li ho fatti con questo 850, ma non li ho fatti né col 440, col 430 assolutamente, perché sono bidoni a confronto lui, e sono radio che comprimi con 300, 400 euro queste perché costano 600, 700 euro, perché cazzo offrono più cose, sono filtrate, vedi, tutta un'altra cosa assolutamente, vedi, infatti radio come il 440, il 430, il 757, quelle radio lì non ne compro più assolutamente, sono giocattolini, mi è come avere un baracchino a sintonia continua, sono piccolini, sono, io voglio radioni, mi come questi, mi piacciono i radioni, mi come questo che sto usando adesso, il DS2000 che è un quadriband ed è anche nettamente superiore a questo, poi hanno fatto il 940 anche che è una bella radio e c'è anche lo Smitter, vedi, la lancetta mi piace molto anche il 940, sì, ho sempre superiori, anche l'ICOM, l'ICOM soprattutto, vedi, ha saltato della radio e mi piace molto il 756 Pro 3 della ICOM, che è un ottimo apparato, e c'è l'amico famoso che c'è in Russia, vedi, quello che disturba la 555, che è il mio grande amico, quello è quello lo stesso, c'è il Pro 3 della ICOM, 756 Pro 3, che è anche una bomba, mi piace molto quell'apparato, sì, è poi qua, della IAESO anche l'FT2000, l'FT2000 non è male, però se devo spendere dei soldi per un FT2000, cazzo, magari trovo anche il migliore che hanno fatto, quindi FT5000, quello lì mi piace molto, solo che costa 2.500-3.000 euro, però non è una roba, cioè chi li spende anche, quindi ho degli amici che vanno in bicicletta, cioè quello che spende, quindi 3.000 euro per comprarsi la bici in carbonio, quindi come c'è quello, vedi, c'è quello che ha la passione della radio e c'è quell'altro che li spende per la radio lui, vedi, poi sono anche un musicista, vedi, ci sono quelli che si comprano gli organetti, vedi, che costano quella cifra, vedi, perché sono l'organetto e ne capisco, e ci sono quelli che li spendono per lo strumento musicale, per lo sport, le cose, vedi, cioè, c'è quello anche che li spende per la radio queste cifre, ovviamente, avendo possibilità di spenderle, vedi, uno che non ha famiglia, vedi, come me, vedi, si fa il suo lavoretto, vedi, lasciamo le soldi e si compra quello che vuole, io ho fatto così, infatti, non sono andata mai a chiederle a nessuno le cose, vedi, questo me lo sono comprato io, vedi, l'850, capito, e assolutamente sono andato a lavorare, mi sono comprato questo Kenwood, mi sto trovando molto bene, della la verità, l'unica cosa che ci devo mettere piano piano è la colonnina e il microfono, vedi, con l'MC60 ci manca, poi mi piaceva anche mettere lui, lo sai che cosa, l'SVR esterno, anche se non c'ha il cordatore mi uso quello che c'ho esterno, che ci accorda bene, però la lettura, mi volevo mettere questo SV200 marchiato Kenwood per abbinarlo tutto alla radio, mi ha capito, per essere tutto marchiato del medesimo marchio, capito, mi volevo mettere anche, vedi, questo rosmetro, che sono già accordatore, perché mi è piaciuto subito quando l'ho visto e capito, però vedi, sono cose, vedi, come ogni cosa, come ogni passione, anche questa è una passione che c'ha i suoi costi e bisogna andarci piano piano e non bisogna andarci tutto un colpo assolutamente, perché mi piacciono molte cose, ma molte volte devo fare economia anche, vedi, perché vedi, non è che ti puoi spendere tutti i soldi, vedi, nella radio, cioè molte volte c'è uno, vedi, che può fare tutto assieme, ma molte volte c'è l'altro che fa le cose passo per passo come faccio io, vedi, e piano piano però riesco a completarlo, lui riprende, no, ma l'altro non riprende più, guai, utile che possiamo chiamarlo, sicuramente ha avuto qualche problema, comunque ci provo, attenzione Antonello, sei ancora in ruota? Sì, sono stato proprio con la mia ragazza appiccato qua, capito? Già mi sento, mi sta ascoltando, non ti preoccupare. No, perché non vogliamo fare maleducati, Antonio, ti ho chiamato già tre volte, ho pensato che avevi avuto qualche problema, sì. Rilancio a Luigi, riprendi Luigi, rientrato Antonello. Sì, QSL, sì, abbiamo detto buon un cuore X, sì. Allora, sì, no, ma neanche a me lui, assolutamente, mi piace separarmene, capito, poi soprattutto da questo 250, questo me lo terrò fino alla morte, a dire la verità, anche se mi si dovesse guardare un domani, me lo tengo a soprammobile, non lo vendo, assolutamente, qua non lo regalo, non lo do più in cambio di altre cose, questo me lo metto soprammobile se si dovesse incasinare, non lo do mai questo apparato, ma perché ho troppi ricordi, ho collegato questo mezzo mondo, tutto il mondo, cazzo, perché mi mancano soltanto poche regioni, da fare pochi stati, e poi ho collegato quasi tutto, qua, nella 11 metri, e va molto bene, poi ovviamente se mi si dovesse incasinare, già ci sono le assistenze per queste cose, già se ne trovano pezzi, già ce ne sono tecnici, di questo non c'è problema, lui, capito, oppure me ne posso anche infatti l'apparato quadripanda è quello a averlo, più che altro per fare ascolto, si può fare ascolto, vedi, offre più cose, vedi, si sposti in tante bande, vedi, ma però in quale bande dici andrei soltanto a fare ascolto, non è che mi piacciono molto, e le mie bande preferite sono quelle HF, la 40 metri mi piace molto, vedi, la 20 metri, la 80, e capito anche la 160, però in 160 bisogna avere la antenna adatta, capito, non è che ci entri così facilmente, capito lui, no, la 40 metri mi piace molto, dire la verità, se avendo la licenza me ne andrei sempre in 40 metri a fare attività radio, ma c'è anche in Cosmi, nella, come ti posso dire, sulla 27 è così lo stesso, io ormai avere la licenza di radioamatore conta poco, perché ormai in 27 se ti metti colleghi tutto il mondo, mi sfruttando la propagazione, quindi non c'è bisogno neanche di andare sulle bande HF, vedi, a fare questi collegamenti, vedi, uno che passa sulle bande HF passa soltanto per il semplice gusto di essere radioamatore e di poter usufruire di tutte le bande, però in 27 c'è più libertà e tutta un'altra cosa, mi piace di più a me la banda di 27 mega, per dire la verità, e si può apparati ne ho tanti, c'ho questo, c'ho il 757, c'ho le console 2, il Superstar, c'ho il Tornado, vedi che mi manca solo la pappina e poi anche quello esce bene, ho visto, e mia, per fare questi DX, queste cose va molto bene anche quello, c'ho quei due Sommercamp, qui dentro c'è un'altra stanza piena di radio, mie, tutte perfettamente funzionanti, che sono gingilli, quei paratini, perché come li ho fatti, va, e poi come erano prima non volevano visti, li ho tutti portati alla perfezione, riescono alla grande in AM, alla grande anche in FM, in tutte le modalità di emissione che hanno le radio, sono tutte perfette, perfette, danno i segnali perfetti, quindi roba scacciavitata, come dicevano, non ne ho più praticamente, cioè sono roba che vale soldi, le robe scacciavitate mi sono messe, dismesse dentro gli scatoloni, in garage, le tiro fuori soltanto quando c'ho il clone per staccarmene i pezzi, mi servono quelle, sono apparati che non uso più che altro quelli, e ogni volta che si possono sistemare, ma come hai detto tu lui, quando ne hai troppi, ne hai troppo, non ce la fai troppo a gestirli tutti, è un casino ad accenderli, devi trovare pure il tempo, io merito un sacco di tempo libero, ma con domani non penso che avrò il tempo libero che ho adesso, infatti sono, mi sto godendo, vedi, tutto quello che posso finché posso, vedi, e poi vedi, non è che devo stare sempre attaccato alla radio, la vita non è soltanto fare radio, però se ho quei 5 minuti, quella mezz'oretta libera, qualche DX me lo farò volentieri, capito, poi ovviamente mi comprerò apparecchiature più potenti di queste, anche in futuro, però questo me lo tengo al soprammobile un domani, vedi, come storia, vedi che ho fatto tutte queste cose, me lo espongo insieme alle QSL, tutte le cose che ho fatto, perché assolutamente non lo do mai, assolutamente, perché mi piace troppo. E poi comprare altri apparati non ci sto neanche pensando, almeno che non li provo a due soldi, che hanno qualche lavoretto da fare, ovviamente glielo faccio, se posso ovviamente farlo, prima prendo informazioni su di che cosa si tratta, molte volte ci sono anche delle fregature, come sia successo, successo, che ho comprato delle radio che purtroppo non sono riuscito a sistemarle, però sono conservate anche quelle, sono conservate, vedi, se mi è capita una precisa e vedi, c'ho l'altra perfetti, vedi, soltanto a comprare una radio, vedi, per staccarsi le manopoline, adesso che una radio non funzionante ne vogliono 70-80 euro, mi lui, cazzo, sono soldi, vedi, io ce li ho di scorta, tutte queste cose, ma anche se me ne chiedono non le darei, non le do perché mi servono a me, affitto per completare le mie, anche se vedi, mi si guarda una roba e un apparato che ho funzionante, vedi, c'ho il pezzo di scorta, me le tengo perfetti, più che altro, quelle che ho dismesso, però comprare altre radio, cioè questi due HF che mi vanno molto bene per fare l'uso, vedi, su qua, sulla 11 metri, vedi, vanno tutta la grande, l'unica cosa, vedi, che mi devo mettere a posto è quel lineare che ti ho detto, che c'ha i cavi di alimentazione, col TV 2001, vedi, mi devo sistemare l'alimentazione che alimenta le valvole, perché adesso non mi accendono più quelle valvole, perché abbiamo sbagliato il collegamento di qualche filo e, vedi, con calma si fa anche quello, l'unica cosa che mi devo mettere a posto è il lineare, quello, il TV 2001, capito, perché per sviluppare più potente l'antenna e anche se lo uso poco, dire la verità, anche se lo dovessi mettere a posto, però, vedi, l'unica cosa che mi manca nella stazione radio è quello, per il resto c'ho tutto, sono super attrezzato, 7 e le bande HF, poi il resto mi sono a fare ascolto l'usuri, quindi sì, questo è, lei concordo con te assolutamente, in poche parole ti sei anche tu accorto, cioè che prenderti la licenza non ne vale neanche la pena, lui, perché poi se vedi anche cosa offrono le bande amatoriali, ti sei fatto un concetto pure tu, invece con il 27 vedi, sfrutti la propagazione pomeridiana, vedi, accendi un pomeriggio, cosa ne so, la domenica, il sabato, e vai, vedi, su quella frequenza lì, ti fa la chiamata col tuo cuore zetta, vedi, e ti colleghi il mondo, poi se sei iscritto sul cluster vedi tutte le stazioni che stanno modulando al momento, la frequenza, vedi tutto questo ambaradam di cose, vedi, ti scambi la QSL quando vedi fai il collegamento, poi se vuoi la QSL cartacea, vedi, ti fai mandare quella via tosta, la cartacea, no? E ti diverti di più, ti diverti, e capito, poi anche a livello radioamatoriale non è che uno non si diverte, non dico questo, però dici tu, mi troppo impegnativa, vedi, devi piazzare tutte queste antenne, direttiva, queste, cioè, perché cosa poi, anche a comprare questi, tutti questi apparati qua su Facebook, io ho un sacco di amici radioamatori che ho collegato da ogni parte del mondo, di americani, russi, sudafricani, brasiliani, guarda, di ogni parte del mondo, dell'Inghilterra soprattutto, vedi, è gente che ha un sacco di notorietà quella, vedi, di possibilità economica di comprarsi le cose, e ho visto che, vedi, vanno con una semplice radio, come HF, come chiamano noi, sopra la radio, c'hanno l'accordatore, lui, se non usano né lineare né niente, sono in pochi quelli che lo usano, lineare più che altro, solo perché vogliono sviluppare più potenza, però quando la radio c'ha il watt suoi, quelli che c'ha anche di fabbrica, va più che bene in qualsiasi tipo di banda, perché ho visto che basta poco per farsi sentire, ho visto, e addirittura l'altro giorno ho parlato con questo amico irlandese, vedi che sono amico anche su Facebook, ci siamo collegati, e qui in 27, stavo usando un president di quelli lì con mieta la macchina, cazzo, mi stava sfasciando il culo lui qua in propagazione, mi stava arrivando tutto di 9.30, più di 9.30, poi cazzo, gli ho fatto i complimenti, mi ha mandato una registrazione di come li stavo arrivando io in Irlanda, Irlanda del Nord, non Irlanda, quella di sotto, Irlanda del Nord, praticamente cazzo, arrivavo bene pure io, ma lui arrivava molto forte, conta che ero con 8.50, lui stava usando un president leaking, come infatti non gli ho fatto i complimenti, me l'ha detto, che sono una piccola stazione dell'Irlanda, forse la più piccola, vedi, all'inizio ho iniziato con un presidente Lincoln, vedi, come questo che sto usando adesso, adesso poi avevo un Jackson, non ho mai fatto uso di radio HF, adesso sono molto soddisfatto, vedi, per come sto andando adesso, cazzo, mi stava rompendo tutto qui lui, cazzo, pensa tu, non è che ci vuole tutta questa attrezzatura per arrivare forte, anche uno se c'ha un baracchino vecchio, vedi, questi che ho io, la collezione, che c'ha la banda laterale, mare sensuale di quelle frequenze, ma anche in AM, cioè che c'ha tipo lineare che ho io, BV2001, attacchi lineare, che cazzo, rompi le ossa a tutti, rompi, anche con una radio di merda, va bene anche, perché proprio c'ha il microfono buono, e c'ha una buona modulazione, conta, è anche un'apparecchiatura che compri con 30 euro, 40 euro, gli metti un lineare grosso e cazzo, rompi il culo a tutti, l'unica cosa che uno deve fare è avere l'antenna buona, il lineare grosso, l'accordatore che regge il kilowatt e il rosmetro che è ovviamente che va oltre i 100 watt, quindi che regge almeno un kilowatt di potenza anche il rosmetro, altrimenti fondi tutto e non ce n'è bisogno neanche di fare uso della radio HF in 27, però ci sono radio, vedi, HF come questa che sto usando io, che non c'è neanche bisogno di metterli in lineare, questa è tirata, questa che ho preso io, lui, quella di Giovanni invece tira in banda laterale quei 100 watt che c'ha di serie, no? Invece la mia ho visto che arriva a 160 watt, 160 watt che ha in banda laterale, si aumenta, adesso sono a quella potenza ore 12, mia, ore a mezzogiorno, metà potenza, sono come sono messo adesso, sto tirando un 50 watt in antenna, tondi tondi, un 50 watt in antenna, proprio tondi tondi, cazzo, vedi, se aumento, sale anche di più, sale, ma non ce n'è bisogno, poi quando l'attacco al lineare, ho visto che pilota anche, vedi, il lineare grosso, ho visto, e ci posso entrare anche con 12 watt in ingresso, ho visto, e cazzo, sono colpi di 300-400 watt, ho visto anche 500, riesce a fare, e va molto bene. ancora peggio, c'è attacco quel VW 2001, cioè, non ce n'è bisogno, capito, non ce n'è bisogno assolutamente. Io ho l'Alfa Lima qua, lui lo sa per che cosa, perché lo uso con i baracchini, me lo uso a pompare i baracchini qualche volta, a me quando ce n'è bisogno. Molte volte ci sono giornate che modulo con il tornado e arrivo, vedete, dove sei tu nelle tue coordinate, con solo 12 watt e antenna, non c'ho neanche bisogno di mettere questi 50. A meno che non ci sia disturbo sulla frequenza, vedi QRM, tutte queste cosette qua, non ce n'è bisogno, però a livello di apparati, per un discorso, ormai sono più che attrezzato, non mi manca nulla, qualsiasi apparato che possiedo, anche se un vintage, va molto bene per usarlo qui sulla 11 metri, quindi non c'è più bisogno che io vada a comprare un'altra radio, tipo se mi dovessi comprare un'altra radio è soltanto perché mi voglio fare un regalo, mi voglio togliere un ospizio, una cosa, ma ormai gli apparati che ciò vanno più che bene, lui dice, perché comprare un'altra radio KF, vedi, un'altra radio differente, uno quando c'ha, vedi, il 100% da una cosa, che è soddisfatto, vedi, no, non c'è bisogno di andare a buttare via soldi, perché poi facendo così e buttare via soldi, cioè io la penso in questo determinato modo, così anche la licenza radioamatoriale, cioè perché cosa, per piazzare tutte queste antenne, cazzo, quando con un'antenna dal cazzo, che ho pagato mi quant'è, 80-90 euro, l'avevo pagata, adesso le trovo che a prezzi di 50-60 euro queste antenne, cazzo, ci ho collegato tutto il mondo in propagazione, e basta che ci siamo in un filo di propagazione, vai ovunque, anche sulle 11 metri, non c'è bisogno di comprare tutte queste apparecchiature, tutto uno spreco di soldi, mi riprendi? Sì, QSL, beh, ovviamente, giustamente così, ovviamente poi se ti affezioni è una cosa, lui, ma ovviamente se poi te ne compri un'altra, cioè rischi, vedi, che poi lasci perdere, come si dice, la tra la vecchia per la nuova, e molte volte non si fa così, non sai perché lui, perché cosa ti posso dire come esempio, è come che uno, vedi, è sposato con la moglie, vedi, ha fatto già la sua scelta, ha cazzo nella vita, ma molto d'accordo con la moglie, ma le capita un'altra donna, cosa ti posso dire, che di aspetto fisico anche vedi della moglie, cazzo, però, cioè non è che deve piantarsi la moglie, dico, cazzo, che cioè, ti è sempre andata bene per un'altra donna diversa, capito, anche se quella magari più bella, rende più all'estero, no, però ti sto dicendo, la radio è così, più o meno lo stesso discorso della radio, vedi, vedi come che sono, cosa ti posso dire, legato a questo 850, no, ci sono radio migliori di queste, non lo metto in dubbio, però a me è sempre andato bene da quando l'ho preso e non mi ha mai sgarrato una virgola, la verità, sono molto entusiasta e magari cazzo mi sale il tizio, lui compro magari una radio, oppure verso questa, magari per comprare, per avere, vedi, più soldi a comprarmi una radio anche più grande, cosa ne so, tipo me di quegli Aesio che ti stavo parlando prima, magari lo compro, però ci sono lavori da fare, lui è tutto sgangherato, vedi, e ho perso, cazzo, quella radio buona, cioè per prendermi una radio di merda che è tutta toccata, vedi, e beh, poi non sono contento, capito, anche quello, cioè, sono discorsi questi che bisogna riflettere anche, vedi, su questo che ti sto dicendo, perché, cazzo, molte volte, vedi, da fare, cosa ti posso dire, queste scelte azzardate, così, no, di un coso, di un incantesimo che ti sale, cazzo, in testa, così, magari, che una roba, magari, provvisoria, e cazzo, dai via la radio buona, vedi, per una cagata, molte volte, perché quella può essere toccata, può avere problemi di condensatori, di display, di altre cose, di altre sue funzioni, magari che non vanno, e magari te la danno a un prezzo anche più ragionevole, ma ovviamente ci sono lavori da fare, no? Non va al 100% delle sue funzioni, capite cosa ti voglio dire? E così è questa cosa qua, uno deve dare soltanto le cose, vedi, che c'ha soltanto quando gli creano problemi, come in questo caso della moglie, vedi, se uno, vedi, che intorno al discorso di prima, se con la moglie non va d'accordo, fa prima a separarsi, no? Questa è una cosa ovviamente normale, no? Che si fa un'altra vita con un'altra donna, magari anche più bella, però se è legato alla moglie, vedi, che le sono andata bene la moglie, che abbiamo molto d'accordo con la moglie, non deve andare a fare questo tipo di scelte, così è il discorso della radio, capito, io lo vedi, sono molto legato a questo 350 e non me ne voglio separare, anche se capo in futuro, vedi, ho possibilità di comprare un'altra radio, ma solo se cose come hai detto tu, comprandomi anche un'altra radio differente, sono un istanto così per farlo funzionare, per non guastarsi, però cazzo, questo qua è tutta un'altra cosa che vedere, però mi piace anche quello, sì, però questo qua è tutta un'altra cosa, questo mi è piaciuto subito come anche prima di averlo, quando ce l'aveva Giovanni, che Giovanni me l'aveva fatto sentire, mi è piaciuto subito, infatti mi sono detto devo avere anche io quella radio, cazzo, mi è piaciuta subito, poi mi sono guardata in internet, me ne sono subito innamorato di questo 850 e non voglio cambiare assolutamente, ma neanche se mi danno 2HF lo do, mi capito lui, non lo do neanche, mi segua, addirittura mi devo mettere la colonnina, ma lo voglio completare piano piano, mi metto anche quelle cose che ti stavo dicendo, esterne, vedi, che sono tutte abbinate, che le ho viste nel coso, nel depliant della radio e ce l'ho tutto perfetto, e poi ovviamente già mi diverto con i paracchini anche, però questo qua è tutta un'altra cosa, hai capito? Però anch'io, vedi, se dovessi fare degli altri acquisti, lui, cioè, se mi devo, cosa ti posso dire, comprare qualche altra cosa, vedi, per la parte una radio, boh, non so cosa comprarmi neanche, cosa ne so, qualche microfono, oppure cosa ne so, cosa cazzo mi manca, altro, c'ho tutto ormai, perché c'ho anche delle cose che erano di mio padre, che ormai non li usa più, vedi, c'ho tutto, non mi manca niente, non devo comprare niente perché c'ho tutto, capito, e non svendo via niente, assolutamente, perché conosco il valore delle cose, guarda, difficile che qualcuno vada a fregarmi, mi devo soltanto più che altro revisionare il lineare, vedi, vivo 2001, che gli ho messo le valvole nuove, cioè le valvole al 100%, hai capito, mi devo soltanto accendere il lineare, non mi manca nulla, sono super attrezzato, dire la verità, molto contento di quello che possiedo, guarda, ovviamente in futuro, guarda, avendo possibilità, non comprerei neanche l'HF, un altro KF anche più nuovo, perché cioè, se mi va bene questo per fare quei collegamenti che faccio, perché comprare un'altra radio, per cosa? Per andare a fare vedere agli altri, cos'è che mi sono comprato, cos'è questa radio, ma non me ne frega assolutamente niente, anche perché cioè, se io voglio arrivare bene, basta che facendomi quell'altro gingillo che ho, che devo mettere a posto, e anche se ci attacco un baracchino degli anni 70, lui, o degli anni 60, esco forte con quello, non ce n'è per nessuno, conta che c'ho un kilowatt e quella roba lì, è quello che conta, sono la potenza e l'antenna, mi puoi uscire con qualsiasi apparato, l'unica cosa di comprare, vedi, una radio di queste nuove, soltanto per dirmi che io possiedo questa radio, questo, perché vale un botto di soldi, perché magari è una radio recente, la uso nei radioamatori, ma qua se attacco un baracchino, un lineare, che ce lo busca anche la radio del radioamatore, c'è poco da competere, assolutamente, quando uno c'ha più watt, che cosa fai? Come che uno metti uno che c'ha una pistola calibro 9 con uno che c'ha un Kalashnikov, quello che c'ha la pistola busca secondo cosa gli arriva addosso, vedi, e sono tutti discorsi, vedi, è come se metti un macinino di macchina con una chiave motore, è la stessa cosa, vedi, il discorso è quello, ovviamente di apparecchiature sono soddisfatto di quella che ho, capito, te lo sto sempre dicendo e continuo a dirlo, non cambio assolutamente, anche perché la panda, vedi, avere un quadripanda, cosa lo usi lui, cioè se poi non ti piace neanche ad andarci, neanche a farti ascolto, per quelle VHF, perché a parte che non c'è niente, ogni volta qua che ci capito ci sento delle persone che non mi va neanche di sentire, nella verità, non mi piace neanche per quello, infatti mi piace a me la 27 e la panda, quella di radioamatori, no? Quella HF, vedi, a 160 metri, prima di cena me ne vado sempre in 160, vedi, ci sono dei radioamatori di Alta Italia, vedi, fanno dei question veramente molto interessanti, perché fanno degli esperimenti su delle cose tecniche, e la gente che si è al fatto suo, quella, hai capito, in certi argomenti, ed è bello ascoltarli, perché ti fai anche una cultura in base a quello che stanno parlando, vedi, c'è sempre da imparare, ovviamente, se fanno questo tipo di esperimenti, invece quando li sento parlando di pallone, di queste cose qua, giro il VFO, mi cerco, vedi, un altro QSO che mi piace di più ascoltare, vedi, quando faccio ascolto su quelle bande, e molte volte ci sono dei QSO che sono veramente interessanti, perché a volte parlano di argomenti di attualità, ma mi piace molto quando fanno degli esperimenti, che parlano di apparecchiature, di lineari, di antenne, di cose del genere, vedi, perché vedi, è come che tu stai prendendo degli appunti, vedi, da gente che ne sa più di te, perché c'è un, cosa ti posso dire, un professore che praticamente che ti sta spiegando una cosa e tu prendi gli appunti, no? E c'è sempre da imparare da quelle persone lì, però da quelle persone, perché qua in questa zona ho visto dei radioamatori che credono di essere dei sapientoni, che hanno preso da poco la licenza, ma più che accettare un consiglio da loro, lui, guarda, meglio faccio la testa mia, assolutamente. Proprio da gente così non accetto consigli, vedi, invece è bello a seguire delle persone che ne sanno molto, che hanno anni di radio, capito, come questi che ti sto dicendo, e hanno una certa esperienza, infatti mi fa piacere, vedi, ascoltare questo tipo di conversazioni alla radio, capito, e ti fai una cultura in tutto, e poi quelli ne hanno avuti di radio, apparecchiature, hanno sperimentato un sacco di cose, capito, e quindi c'è molto da imparare, anche, vedi, andare a conversarci, anche per, avendo la licenza, è un casino, perché quando ti rilanciano che brutte figure, perché conta che loro sanno, vedi, sono preparati in tutti gli argomenti, e come che a te ti stanno chiedendo, cosa ti posso dire, delle radici quadrate, delle cose di algebra, di fare, vedi, di tutti questi compiti che sono difficili, lui è, e non li sai fare, loro invece cazzo ne sanno più del diavolo, e ne fai, cioè, non ti trovi a tuo agio anche a modularci, perché fai figure di merda, perché loro ne sanno più di te, capito? Infatti in quelle bande uno ci entra soltanto se sa aprire la bocca, che è preparato determinati argomenti, anche, vedi, quindi non mi interessa prendere la licenza anche per questo motivo, ma ovviamente ci sono anche altre bande, però andare con delle, a parlare, cioè, con delle persone che pensano di essere degli, cosa ti posso dire, delle idee della radio, no, a me no, non mi interessa proprio andare in certe frequenze, vedi che magari ci sono persone che sono diverse da quelle, però cioè, sono persone che non vanno d'accordo, capito? Quindi vedi, sto bene sulla 27 MHz, però mi piace più che altro la banda KF, come si chiama, di radio amatore, mi dico, altre bande, qua uno compra il quadribanda, sì, e cos'è? Il quadribanda c'ha VHF, le U, le V, sì, va bene, ma io più che altro la userei quella banda lì per ascoltarmi la radio, quelle delle canzoni, che molte volte me li ascolto, vedi, anche a vedere quelle che arrivano in propagazione, vedi, perché l'altra sera ne stavo ascoltando una che era da quelle zone lì della Spagna, ho visto, e se la giocava di 10 decibel con quest'altra stazione locale, no, se la giocava, no, arrivavano abbastanza forti in FM, e me li ascolto ogni tanto, poi vabbè, quelle della Corsica, la zona di Aiaccio, quelle zone lì, le ricevo tutto l'anno, sì, con l'antenna degli 11 metri, e capito, e poi mi ascolto la banda aerea, lui, la banda aerea, perché mi piace molto sentire le conversazioni degli aerei di linea, che me li ascolto anche in HF, perché in HF c'hanno le frequenze anche in HF, ho visto, e però sono quelli voli oceanici, quelli che fanno lungo raggio, vedi, ho visto che parlano anche mi vicino alla banda dei 45 metri, poi li ho ascoltati anche in 11.000 e oltre anche ad altre stazioni militari, molte volte mi ascolto la base di Sigonella, sì, che c'ha la frequenza sugli 11.000, anche, vedi, vicino alla banda dei 60 metri, ho visto che, vedi, modulano lì, e anche dell'esercito russo ne ho sentito anche, sono belle cose, e poi se scendo anche più in basso ricevo anche le comunicazioni dei sottomarini, ecco, questa radio, riprendi, è copiato lui, sì, questo è, lei fanno i troppi così, infatti, poi a finire anche che te ne dimentichi che ce li hai molte volte, io ne ho troppi lo stesso di questi, però cioè neanche ne metto in vendita lui, perché me li devo vendere, non ho bisogno assolutamente di venderli, ma più di venderli li faccio a pezzi, regalare, non ne parliamo, che regalo apparati, ovviamente posso fare magari qualche scambio, dico, ma con persone che ritengo sia giusto fare lo scambio, capito, non persone locali, ovviamente, più perché non faccio più scambi con gente locale, assolutamente, meglio le faccio a pezzi le radio, perché anche non mi interessano quei baracchini che ci ho dismessi, capito, però molte volte, come hai detto tu, capitano lì, te ne dimentichi, infatti c'ho delle radio, ma che posso anche mettere a posto, mi lui, guarda, se ti dico di che radio sono, mi dici, cazzo, bello macco, vesese, se te non la dragonza, ne ho tanti miei, li posso anche mettere a posto, che hanno cazzate, vedi, su internet, scelto lui quelle poi che mi piacciono di più, mi sono messo quelli della postazione, poi c'è un'altra postazione anche dentro ovviamente, ma la uso poco e niente, la uso più che altro quando faccio dei lavori, mi cose così, ma hai capito, le cose migliori sono quelle che ho qua, che ritengo che sia giusto avere nella postazione di battaglia, sono queste, mi piacciono molto, le ho scelte, sono le mie preferite e continuo a usarmi queste, vanno più che bene, ho visto e non mi hanno mai dato problemi, arrivo a forte e sono molto soddisfatto, e quando sono soddisfatto non devo andare a cercare migliorie lui, perché poi vedi anche stasera, vedi, ho tolto il microfono a quella radio, vedi, cercano di migliorarla e vedi, adesso c'è un innesco e domani mi devo risolvere questo innesco, cazzo che c'ho, vedi, pare se non la toccavo era anche meglio, me la lasciavo così, molte volte era a cercare la miglioria, cazzo, vedi, rischi di rimanere a piedi, perché io penso che sia giusto mantenere l'equilibrio, capito, perché vedi uno quando va a volere troppe cose, che pretende troppo se la piglia sempre in quel posto, e capito, perché non tutto si può avere, bisogna adattarsi molte volte alle condizioni di una cosa, vedi, e io cazzo qua sono andato troppo che volevo il massimo da questa radio, vedi, gli ho messo un microfono addirittura con l'incontro coglioni, però c'ho l'innesco, vedi, e mi gira le palle che adesso vedi c'ho questo innesco e glielo devo togliere lui, quindi vedi, quando una cosa funziona, che c'hai altre cose che sono migliori, che le possiedi già, e quella cosa è nata così, oppure la puoi anche migliorare, ma molte volte non ne vale la pena neanche di migliorarla, e capito, quando poi anche ti sei fatto una certa esperienza, in molte cose, e alla fine ti dici, ma che cazzo me lo fa fare, e ti faccio anche un altro esempio, io prima andavo molto in bicicletta, io sulla bici la sto usando poco e niente, ma mi invitano un sacco di ciclisti a uscire, ma me la sto prendendo con pigrizia ormai, non so perché, cioè, ci posso anche uscire, volendo, ma non do più il 100% come facevo prima, assolutamente, quando faccio i giri, prima partivo, staccavo tutti quelli che del gruppetto che erano con me con una certa facilità e con biciclette che pesano 12 kg anche col telaio in acciaio, io non ci ho mai messo ruote alleggerite o cose del genere, e ho sempre spinto con al massimo il 23 dietro di stacco pignoni, avevo l'11-23 massimo, e davanti avevo una corona 53-39, che chi è andato in bicicletta può capire esattamente che fatica bestia si prova, e capito, e li tracciavo tutti, e tutti erano con le biciclette, quelle, lui, carbonio, ruote di 600 euro, mi facevo il culo a tutti, partivo, scattavo, facevo il culo a tutti, non so, mi mettevo in testa, mi dicevo, adesso vado, traccio a tutti, non ne faccio, cos'è, 6 o 5, quante che sono, me li levo da culo, me li levo, e in quel determinato posto arrivo, non so, più veloce di loro, ma prima di loro, no, prendo lo faccio, mi ricordo come mi frulla in testa, prendo lo faccio, non per farmi il gradasso, ma se ti faccio vedere, su Strava c'ho ancora i tempi, sulle socialiste, che è un social per i ciclisti, Strava, noi registriamo i tempi, i giri che facciamo, con tutte di media, tutti i risultati che facciamo, e c'ho ancora i record nelle saliste, c'ho cazzo, e pensa tu se non andavo forte, ovviamente c'è qualcheduno sempre che va più forte di te, ne ho trovati anche che andavano più veloci di me molte volte, però questi della zona lì facevo tutti neri e conoscevo in bicicletta, non c'era per nessuno lui, ma poi però vedi, torna al discorso, vedi, cazzo mi sono reso conto, ma perché fare tutti questi risultati, cioè perché cosa mi devo cazzo sfasciare il culo così, perché cosa, cazzo, quando non ne vale la pena, non ne vale la pena perché cosa, per andare a fare mania della forza, a parte che poi gli altri ti dicono che sei stravagante, vedi, rischi di perdere le amicizie anche facendo così, facendo il galletto, il gruppone, vedi, lo stravagante, perché ti rendi conto che non solo non ne vale la pena lui, ma non serve a niente, mi così è a mettere tutte queste potenze nella radio, vedi, a comprare tutte queste cose sofisticate, ovviamente uno non è che non le deve avere, le deve avere di scorta anche per essere bene attrezzato, però c'è a usarle anche molte volte quando c'è una roba, c'è che c'hai tu il 100% di una cosa, no? Come io posso averlo, vedi, con questa radio, con quello che possiedo, sono soddisfatto, chi me lo fa fare a comprarmi anche un altro HF, se non è tra radio, se mio padre, no? Da prima se non la voleva questa che c'ho io, quando modulava lui, se la poteva comprare, ma forse anche radio migliori, cosa ci voleva, ma non gliene mai fregato niente, lui si divertiva con i baracchini, con la cambio 23, queste cose, appassionato di radio vintage, lui però anche a Caipe ne ha avuto molti, quindi ci ha avuto le linee, verde, queste cose qua, e ce le ha ancora, cazzo, però non gliene ha fregato mai più di tanto, lui vedi, come nel tuo caso, vedi, tu lo stesso se te le vuoi comprare, vedi, tu hai la possibilità, lui, di comprarti quello che vuoi, vedi, perché hai capito, nessuno ne ha tutti questi problemi, capito, però ti rendi conto, non ne vale la pena, non ne vale la pena, perché cosa, sono già soddisfatto così, vedi, mi permette questa radio di fare questo e di fare l'altro, perché comprare, passare un'altra radio che magari non mi posso trovare bene come mi trovo con questa, mi può creare magari problemi in futuro, si può guastare qualche componente, qualche cosa, perché sono molto delicati, ho sentito questi HF nuovi, no? Soprattutto questi della IAESU, anche che ti stavo dicendo, sono belli, sono potenti, ma hanno questi display, no? Tutti a, come si chiama, e vedi che è, sono difficili da gestire, perché si incasinano subito, lui, hanno anche questi spettri di coso, hanno troppa roba, vedi, di componentistica al suo interno, e cosa che non hanno invece questi degli apparati degli anni 80 e primi anni 90, vedi, come questo che sto usando io, perché questi, bene o male, vedi, durano, vedi, secondo me sono anche le radio migliori, quelli il 440, il 430, questo qui che ho io, no, il 450, sono sempre andati bene, no, sono perché, vedi, li accendi e li fai caricare, vedi, i condensatori, sono sempre efficienti come radio, però queste nuove sono più delicate, se le porti anche in assistenza ci vuole un botto di soldi a aggiustarle, perché anche a molte volte trovi dei truffaldini di tecnici, tipo quello del Friuli che ti ho indirizzato, che purtroppo ha avuto questa esperienza, lui è cazzo, infatti adesso ho preso spunto da quello che ti è successo, non ci torno neanche.